posso andare? È il mio momento. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Lunedì 19 giugno 2006. Sei sulla frequenza della benevolenza, M2O. E qui, ogni giorno, alle 18, c'è qualcosa che cammina. Mi piace guardarti giocare, mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto

oggi il cammino desidera percorrere questi sentieri. Desidera lasciarsi trasportare da questo venticello. Questa mattina il sogno mi ha condotto qui. Scusate se stresso, non sono depresso. E che l'appuntamento è importante. Questo sabato, 24 giugno. Inaugurazione estiva. Discoteca Altro Mondo. Rimini, Italia. Questo sabato, 24 giugno, discoteca Altro Mondo, Rimini, Italia, ore 22:30. Sei sulla frequenza della benevolenza, M2O. E qui, ogni giorno, alle 18, c'è qualcosa che cammina. Il cammino non si abitua a un sentiero. Al limite, se proprio gli piace da impazzire, ogni tanto ci torna, lo ripercorre, lo rivive. Ma ogni volta lo sceglie. Time to go away. has taught me to be brave. No matter where I go, I'll never find a better prize. Find a better prize. Oh, you're miles and miles away. I see you every day. I don't have to try. I just close my eyes. I close my eyes. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. La puntata che state ascoltando è una replica. È questa, è voce ufficiale. Gigi è Gigi, non posso farlo. Aspetta, te lo faccio bene con voce ufficiale, dai. Messaggio importante per tutti gli ascoltatori del cammino. Questa parte del programma è registrata, è una replica, è già andata in onda perché a questo punto il cammino è un po' stanchino. E quindi beccati il replichino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. L'avevo già detto. Ah vabbè, sbagliato. Sono Domenico. Voglio dedicare amore elettronico al mio amore, perché con queste note ci siamo innamorati. Sono Filippo, Epic e Adamek, dalla Repubblica Ceca. Per favore, amore elettronico. Sono Max. Voglio dedicare amore elettronico alla mia polipetta che amo da morire. Sono Brandy da Carmagnola. Dedico amore elettronico a te, Doug, un uomo che non conosco, ma che mi aiuta nel mio percorso abituale con il suo suono. Grazie. Seconda edizione del Cammino.

Grazie per aver ascoltato, per aver ballato, per aver pensato, per aver sognato durante quest'ora, per aver giocato sotto questo piccolo cielo. Vorrei dirvi ancora alcune cose, ma forse la musica è molto più brava di me a trasmettere certe sensazioni. Noi ci risentiamo lunedì alle 18. Grazie a tutti voi per questi momenti lontani da tutto.